2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 24 aprile 2010, benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, se volete scriverci è 2024@radio24.it, molto semplice, così come tutti gli altri programmi di Radio 24 e così come molti altri programmi. Vi ricordo che sarà disponibile il file MP3 della nostra trasmissione, quindi sarà possibile riascoltarci attraverso il servizio podcast. Potete ascoltarci anche in streaming sul nostro sito internet, ma vi consigliamo di scaricare il file MP3 sul vostro computer, sul lettore di file MP3, per la comodità del riascolto quando lo volete, quando preferite, soprattutto anche un riascolto che può essere fatto a pezzetti, magari uno oggi si ascolta i primi 10 minuti, domani gli altri 10 minuti e così via durante la settimana. C'è una particolarità perché il nostro file MP3 sarà disponibile poco dopo il termine della trasmissione, quindi entro le 18.30 del sabato. E per questo ringraziamo come sempre i nostri tecnici, oggi Paolo Corleoni. Un altro annuncio riguarda chi ha l'iPhone, perché è disponibile da qualche giorno, dal 15 di aprile, sull'App Store della Apple, l'applicazione per iPhone di Radio 24. Potete ascoltare in streaming la nostra radio, visto che l'iPhone non ha purtroppo la radio FM, potete utilizzare questa applicazione. Per il podcast rimangono valide tutte le modalità già disponibili oggi. Quindi www.radio24.it, questo è il nostro sito internet, cliccate sulla sezione podcast e lì potete scaricare tranquillamente la nostra trasmissione. Detto questo, alcune notizie della settimana, poi i nostri approfondimenti. Per chi ama i compleanni, questa settimana YouTube ha spento 5 candelini, il primo video è stato caricato il 23 aprile del 2005. Quindi un'azienda molto giovane, pensate quale business colossale è stato costruito in 5 anni appena. Oggi YouTube appartiene al gruppo Google. Da lunedì prossimo, 26 aprile, tutti i cittadini italiani potranno richiedere alla pubblica amministrazione una casella di posta elettronica certificata, cioè una casella che consente di attribuire ad un messaggio di posta elettronica lo stesso valore di una raccomandata con avviso di ricevimento. Quindi dietro a quell'indirizzo c'è sicuramente una persona fisica che è stata identificata e quindi associata a quell'indirizzo di posta elettronica. Per ottenere questa casella è possibile accedere dal prossimo lunedì ad un portale che si chiama postacertificata.gov.it e seguire la procedura indicata. Trascorse 24 ore dalla registrazione online e dentro i successivi 3 mesi si potrà andare in uno degli uffici postali abilitati per l'identificazione. Quindi questo sarà un modo per comunicare con la pubblica amministrazione. Dedicheremo un approfondimento nelle prossime settimane per cercare di capire a che cosa serve oggettivamente, nel concreto, nell'azione quotidiana ai cittadini questa posta elettronica certificata, che esiste da tanti anni ma finora non è stata un grande successo. Sicuramente l'Italia è uno dei paesi più avanzati nell'adozione di questo insieme di tecnologie / regole. C'è una sentenza interessante che riguarda i blogger. Secondo la Corte di Appello di Torino, il gestore di un blog non è equiparabile a quello del direttore di un giornale, quindi la sua responsabilità, ad esempio in caso di diffamazione, è limitata ai commenti da lui firmati e non si può estendere ai commenti inseriti dagli utenti del blog. Nel caso esaminato dalla Corte d'Appello, l'imputato è stato condannato per diffamazione, ma è stato assolto dal reato di omesso controllo per i messaggi, appunto, che sono stati postati da altri utenti. C'è un altro caso che è interessante approfondire, e oggi lo vogliamo fare, che riguarda il file sharing. Sull'uso, o potremmo dire l'abuso, di questi sistemi ci si sta interrogando in tutto il mondo. Lo sapete, il peer-to-peer, cioè il sistema che permette di scambiare file da un utente ad un altro, cioè da un computer ad un altro collegati ad internet, è una tecnologia di per sé neutrale, ma è quando si esagera che ci sono dei problemi. Direi di due ordini. Il primo è un problema di consumo della banda. Gli utenti che scaricano grandi quantità di file multimediali intasano letteralmente le reti e questo crea disagi ai molti utenti che invece fanno della rete un uso normale e pagano come gli altri utenti, come dicono gli americani, ne fanno un fair use, quindi un utilizzo discreto ed educato, potremmo dire così. C'è poi un altro problema, che è quello della legalità, cioè lo scambio di file che invece, secondo la legge, andrebbero acquistati. Questo è un altro tipo di problema, e su questo secondo punto, che in tutto il mondo ci si interroga, si propongono leggi per limitare questo fenomeno, e la cosa non riguarda solamente i sistemi di peer-to-peer, che forse sono un po' più complessi e complicati da attaccare, sui quali è più difficile intervenire perché si tratta di uno scambio alla pari tra utenti. Il fenomeno coinvolge anche molti siti internet, e allora, in mancanza di leggi chiare, sono i tribunali ad intervenire. In Italia l'ultimo caso riguarda la FAPAV, la Federazione Antipirateria Audiovisiva, che ha portato in tribunale Telecom Italia. Ma per ricapitolare questa vicenda e capire soprattutto come è andata a finire, ci facciamo aiutare da Guido Scorza, che è un avvocato esperto della rete. Tra le altre cose insegna il Master di Diritto delle Nuove Tecnologie alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna. Dunque, tutto inizia quando la FAPAV, che è la Federazione contro la Pirateria Audiovisiva, decide di sorvegliare, di monitorare come e quanto gli utenti italiani scarichino attraverso alcune piattaforme, non di peer-to-peer, ma siti internet tradizionali, del materiale protetto da diritto d'autore, film, opere cinematografiche protette da diritto d'autore. FAPAV nei mesi scorsi incarica una società privata di condurre questo tipo di investigazione, raccoglie una gran quantità di dati degli utenti intenti appunto nel download di questi file, si presenta di fronte all'autorità giudiziaria civile, chiamando in giudizio Telecom e chiedendo che il Tribunale di Roma ordini a Telecom di porre in essere tutta una serie di attività, ovvero una comunicazione a tutti i propri utenti, ricordandogli che scaricare è vietato e che chi scarica va incontro alla risoluzione del contratto di connettività ADSL, inibendo agli utenti stessi l'accesso a 13 siti individuati da FAPAV come quelli attraverso i quali la più parte degli utenti scaricava materiale protetto da diritto d'autore, e da ultimo inoltrando all'autorità giudiziaria la denuncia ricevuta dalla stessa FAPAV più ogni altro tipo di informazione secondo FAPAV utile ad individuare gli autori e i responsabili delle condotte illecite. Questo è il procedimento introdotto dalla FAPAV. La notizia, la novità è rappresentata dal fatto che nei giorni scorsi il Tribunale di Roma si è pronunciato respingendo due delle tre domande proposte da FAPAV e accogliendone parzialmente soltanto una, cioè il Tribunale di Roma ha sostanzialmente detto che non si può chiedere a Telecom di fare alcuna comunicazione ai propri utenti in relazione al carattere lecito o illecito del download, perché questa non è una misura che compete al Tribunale irrogare o non irrogare, che non si può chiedere naturalmente a Telecom, ma questo già lo sapevamo, di inibire addirittura l'accesso a questi siti, e ha invece detto a Telecom che in effetti sarebbe suo dovere, in quanto intermediario della comunicazione, inoltrare all'autorità giudiziaria e a quella amministrativa competente, ovvero all'autorità per le garanzie delle comunicazioni, ogni informazione nella quale si paventi l'utilizzo della rete Telecom per porre in essere un reato. Questa in sintesi la conclusione alla quale sono arrivati i giudici, ma continueremo tra poco. Questo è 2024, parleremo in questa puntata anche di sicurezza informatica e di commercio elettronico. Stiamo parlando della vicenda che contrapponeva in tribunale FAPAV, quindi la Federazione Antipirateria Audiovisiva, e Telecom Italia. Di fronte a milioni di utenti che scaricavano, ma potrei dire scaricano ancora oggi, file illegalmente, quindi in modo illegale, l'unico dovere, dice il Tribunale di Telecom Italia, è quello di informare le autorità se fosse a conoscenza di un comportamento illecito. Di fatto il Tribunale ribadisce quello che è già scritto all'interno della disciplina sul commercio elettronico, quindi dice: se Pinco Pallino scarica un file in modo illegale e tu, gestore della rete, vieni a sapere che questo accade, devi informare le autorità. Ma qua il punto è, visto che stiamo di fronte a milioni di persone che fanno questo, è anche una questione di numeri. È tecnicamente possibile? È possibile riuscire a far questo? Ancora l'avvocato Scorza. Il punto è esattamente questo, nel senso che quando FAPAV ha citato in giudizio Telecom, quello che tutti quanti si è pensato, ivi incluso il garante per la privacy, che ha ritenuto infatti di intervenire in quel giudizio, è che l'unica possibilità per FAPAV dirsi convinta che oltre 2 milioni di utenti italiani scaricassero materiale protetto da diritto d'autore fosse quella di disporre dei dati personali, ovvero almeno degli indirizzi IP di questi utenti. Appunto il garante per la privacy proprio su questo presupposto è intervenuto nel giudizio a fianco, per così dire, a Telecom, in una posizione ad adiuvandum rispetto a Telecom, chiedendo che il giudice civile respingesse la richiesta di FAPAV perché muoveva da un presupposto: l'illecito trattamento dei dati personali. È un principio assolutamente pacifico che non sono ammesse in Italia investigazioni private in danno degli utenti. Ma nel corso del giudizio accade qualcosa di assolutamente inaspettato, ovvero FAPAV stessa riferisce al giudice che in realtà tra i dati che ha raccolto, che ha chiesto di raccogliere al suo investigatore privato, non vi sarebbe alcun dato personale. Ovvero FAPAV riferisce di aver acquisito esclusivamente dati aggregati, di essere soltanto in condizione di provare che un certo numero rilevante di utenti ha scaricato attraverso l'infrastruttura di connettività di Telecom del materiale protetto da diritto d'autore. E qui è che la vicenda si fa in qualche modo interessante, perché la circostanza che alcuni utenti italiani scarichino illegalmente da altrettanti siti italiani e non materiali protetti da diritto d'autore, per un verso è una non notizia, nel senso che è un fatto evidentemente noto, e per altro verso si fa persino fatica a qualificarla come una notizia di reato da comunicare all'autorità giudiziaria. La stessa autorità giudiziaria naturalmente è perfettamente a conoscenza del fenomeno, ma sapere semplicemente che ci sono oltre 2 milioni di utenti che scaricano materiale protetto comunque non le consente poi alcuna forma di intervento. Possiamo dire che almeno la richiesta della FAPAV, e quindi diciamo dei detentori dei diritti che sono in ballo in questa vicenda, si inserisce in un dibattito in primis, ma anche in un trend che abbiamo visto in Francia prima e in Gran Bretagna poi, cioè quella di un coinvolgimento sempre maggiore del provider, cioè il provider che mi dà la connettività sa quello che io faccio, comunque può saperlo, e quindi i detentori di diritti dicono: laddove ci sia un illecito tu provider devi intervenire. Allora in Italia non ci sono leggi così precise, però questo è un po' il trend. Sì, non c'è nessun dubbio che lo sforzo fatto da FAPAV nel corso del procedimento, e curiosamente fatto da FAPAV dopo il procedimento, cercando di raccontare quanto accaduto come se si trattasse di una sua vittoria, è esattamente quello di responsabilizzare l'intermediario della comunicazione. Il punto ultimo, l'unico obiettivo che si può vedere dietro a questa iniziativa è esattamente quello che si diceva prima, ovvero quello di chiedere ed esigere che il provider, venuto a conoscenza del fatto che alcuni utenti utilizzino i propri servizi per attività illecite, risolva il contratto. Sostanzialmente nell'idea della federazione, laddove non arriva per una questione di numeri l'autorità giudiziaria, laddove non possono arrivare questi procedimenti, dovrebbe spingersi il provider utilizzando dei diritti contrattuali, ovvero quella clausola che è oggi diffusa in effetti in molti contratti con gli intermediari della comunicazione, che dice che qualora i servizi vengano utilizzati per attività illecite il provider si riserva il diritto di risolvere il contratto. Questo è il sogno proibito dei detentori dei diritti, o perlomeno di quanti fanno antipirateria per conto dei detentori dei diritti. Al di là di questo caso, possiamo dire, perché questa è una sottolineatura importante, che comunque sia in rete noi non facciamo quello che ci pare in modo nascosto, non siamo anonimi. Diciamo, laddove sia necessario l'autorità giudiziaria può intervenire e le forze dell'ordine ci possono individuare in qualsiasi momento. Assolutamente, il problema non è infatti quello garantire o di sostenere che esista un diritto all'anonimato assoluto, che si possa addirittura tradurre in taluni casi in una sorta di irresponsabilità dell'utente della rete per la condotta illecita. Il punto nodale di questa vicenda e delle altre vicende delle quali si parla in questo momento in tutta Europa è semplicemente rappresentato da chi debba gestire l'investigazione al fine di imputare correttamente la condotta all'utente. Quello che si sostiene è che questa fase dell'investigazione debba essere gestita esclusivamente dall'autorità giudiziaria o dall'autorità amministrativa di controllo, ma che non possa essere gestita, posto che viene in rilievo la raccolta di una quantità importante di dati personali, direttamente dal detentore dei diritti o da una sua federazione. In questo contesto si inserisce un non so se chiamarlo desiderio, un suggerimento che alcuni giuristi o comunque alcuni esperti della rete stanno facendo e stanno proponendo ai legislatori, alle autorità in tutto il mondo, direi, che è quello dell'anonimato protetto. Possiamo spiegare di che cosa stiamo parlando? L'anonimato protetto è sostanzialmente appunto una via di mezzo tra l'anonimato assoluto rivendicato almeno sino a qualche anno fa dal cosiddetto popolo della rete e invece il non anonimato o il divieto di anonimato addirittura, che sarebbe il sogno in particolare dei titolari dei diritti d'autore, ma in realtà il problema è assolutamente più ampio. Anonimato protetto significa sostanzialmente riconoscere ad ogni utente la possibilità di navigare in rete in forma assolutamente anonima, salvo però che nel momento in cui accede alla rete deve di fatto realizzare una sorta di scambio di identità, deve lasciare il suo nome e cognome, le sue caratteristiche anagrafiche e acquisire in cambio un ID o un qualsiasi codice identificativo che lo renda anonimo in maniera assoluta ai più, ma che nell'ipotesi in cui si renda autore di una condotta penalmente rilevante consenta all'autorità giudiziaria di identificarlo. Il passaggio più delicato quando si parla di anonimato protetto è individuare quel novero di casi, perché non possono evidentemente essere tutti, in presenza dei quali l'autorità giudiziaria ha diritto di chiedere al portiere della rete, che sia l'ISP o che sia viceversa un'autorità amministrativa di controllo, di fornirgli i dati anagrafici dell'utente. Qui è assolutamente nodale ed è importante che si individuino solo ed esclusivamente i casi più gravi. Se mi limito semplicemente a porre in essere delle opinioni borderline, a pubblicare delle opinioni borderline ma non illecite in uno spazio telematico, è probabilmente eccessivo che io debba sapere a monte che corro il rischio di essere identificato, perché questo davvero potrebbe trasformarsi poi in uno strumento di censura rispetto alla libertà di manifestazione del pensiero. Devo invece sapere che se provoco un danno economico importante a qualcuno o se addirittura cospiro, pongo in essere atti di terrorismo attraverso la rete telematica, beh, lì l'anonimato e qualsiasi altra presunzione che lo accompagna cade e io divento un cittadino che risponde alla legge del paese nel quale ho posto in essere il reato. Tecnicamente, per istituire questo principio, per far sì che insomma il sistema adotti questo principio, siamo pronti oppure manca un tassello? Ma in realtà manca una scelta di fondo, si tratta cioè di capire chi debba essere il portiere. Una prima alternativa è quella di fare degli internet service provider i portieri, ovvero attraverso il contratto che si conclude per acquisire risorse di connettività si forniscono delle caratteristiche dei dati anagrafici e quindi di fatto poi è l'internet service provider a conservare questa enorme mole di dati personali, che però solleva dei problemi naturalmente dal punto di vista della privacy. Gli stessi internet service provider hanno detto più volte che fanno un altro lavoro e che non vogliono entrare in competizione con l'autorità giudiziaria e amministrativa da questo punto di vista, e l'altra alternativa invece è rappresentata da creare un'autorità amministrativa ad hoc che sostanzialmente realizzi una sorta di anagrafe digitale degli utenti e una sorta di camera di compensazione o di scambio nell'ambito della quale l'utente lascia il suo nome e cognome e acquisisce un ID, un nickname potremmo dire per semplicità, con il quale naviga in rete. A quel punto sarà la stessa autorità amministrativa di controllo che nel momento del bisogno fornirà all'autorità giudiziaria i dati di cui questa ha bisogno per proseguire in un'investigazione o un'indagine. E questa era la voce dell'avvocato Guido Scorza. Se volete maggiori dettagli, maggiori informazioni, volete approfondire questo tema, sicuramente un buon punto di partenza è proprio il blog, il sito internet www.guidoscorza.it. Metteremo un link anche sul nostro sito internet. L'argomento è estremamente importante e anche molto interessante per alcuni. È una notizia che arriva dall'Europa per coinvolgere i provider, per farli diventare poliziotti della rete, potremmo dire così, si potrebbe andare verso una forma volontaria di cooperazione. Secondo una bozza dell'accordo antipirateria e contraffazione che l'Unione Europea sta negoziando con Stati Uniti, Giappone, Singapore, Messico, Marocco, Canada, Svizzera e Australia, ci sarebbe l'idea di affidare agli internet provider il compito di individuare gli utenti che diffondono o si scambiano file in modo illegale. Non si tratterebbe di un obbligo di legge, ma di un incoraggiamento messo in questi termini, cioè se i fornitori di servizi internet collaboreranno con la giustizia saranno messi al riparo da eventuali cause per favoreggiamento della pirateria. E quale sarà di fronte a questa proposta il provider che dirà di no. Vedremo poi come andrà a finire. Si parla di un dibattito, di una trattativa a proposito di questo accordo antipirateria che dovrebbe essere concluso entro l'anno. Seguiteci ogni settimana, 2024 va in onda il sabato nel pomeriggio di Radio 24 tra le 16 e le 17, ci trovate poi online. Come sempre vi ricordo la possibilità di scaricare il file MP3 della nostra trasmissione attraverso il servizio podcast al quale potete abbonarvi gratuitamente. Andate sul nostro sito www.radio24.it, cliccate sulla sezione podcast, lì vedete la disponibilità dei nostri file. Ci sono sempre disponibili le ultime 5 puntate, ma se utilizzate un software per la gestione del podcast potete scaricare in maniera automatica settimana dopo settimana la nostra trasmissione e poi utilizzarla e ascoltarla quando preferite. Il file MP3 della nostra trasmissione sarà disponibile entro al massimo 1:30 dalla fine della trasmissione, quindi il sabato entro le 18:30. Per questo ringraziamo i nostri tecnici. Oggi in regia c'è Paolo Corleoni. Adesso parliamo di security, così dicono gli esperti di sicurezza informatica, che è poi una cosa che dovrebbe preoccuparci tutti i giorni, perché quando navighiamo in internet siamo potenzialmente esposti ai pericoli. Vogliamo parlarne con Antonio Forzieri, che è un esperto di security in Symantec. Symantec ha presentato da pochi giorni un rapporto che è già stato presentato, è già stato realizzato negli anni passati, che fa un po' il punto della situazione sullo stato della sicurezza dei computer, delle macchine collegate in rete in tutto il mondo, e naturalmente fa il punto anche della situazione italiana. Forzieri, benvenuto 2024. Buongiorno Enrico, grazie dell'invito. Possiamo dire che a livello generale si confermano alcuni trend che voi esperti di sicurezza avete già osservato da un po' di tempo. Forse il trend che spicca di più è quello che il crimine si sta organizzando in rete, e in rete molti dei problemi di sicurezza sono collegati prevalentemente con le organizzazioni criminali che cercano affari su internet, quindi è una questione di soldi. Questo lo vediamo già da un po' di tempo, ma si conferma in crescita questo trend. Sì Enrico, hai assolutamente ragione. L'equazione che governa il fenomeno che hai appena descritto è abbastanza facile: informazioni uguale generalmente identità digitali uguale denaro. Questa è l'equazione che sfruttano i criminali 2.0, così come li abbiamo battezzati. Lo scopo quindi è sottrarre informazione per poi rivenderla, trasformarla in denaro. E nel mercato underground, come l'hai descritto tu prima, ci sono una serie di fenomeni, di strumenti, e tutti questi strumenti, questi fenomeni, questi modelli organizzativi, abbiamo osservato quest'anno, stanno diventando sempre più complessi e mimano sempre più da vicino quelli che avvengono nella vita reale. Quindi potremmo dire che diventare criminali online non è certo un'attività facile e semplice. Diciamo che se in passato servivano avere delle conoscenze tecnologiche, oggi tutto sommato non è più così. Ah, quindi da questo punto di vista c'è un trend forse quasi inverso a quello che uno potrebbe pensare, cioè il web diventa sempre più complicato, ma fare crimine online non lo è così tanto. Diciamo che gli strumenti che vengono generati dall'underground sono sempre più complessi e sempre più di semplice utilizzo. Molto spesso sono basati su finestre, punta e clicca, crea il virus, diffondilo, compra questo servizio, erogalo. Quindi più che essere dei bravi esperti di sicurezza per commettere una frode, bisogna essere dei bravi manager e conoscere dei modelli di frode. Senti, quali sono gli strumenti che il crimine organizzato in rete utilizza più spesso? Quindi anche i tipi di attacchi che vengono fatti. Ci sono diversi fenomeni che abbiamo osservato quest'anno. Lo strumento maggiormente utilizzato, che credo sia tu che gli ascoltatori avranno sicuramente già sentito, sono le botnet, quindi delle reti di PC zombie, di PC che vengono infettati. Credo che se ti dico il nome Zeus o ZBot è qualcosa che sicuramente tutte le persone che comunque si interessano di tecnologia hanno più o meno sentito. Si tratta di codice malevolo che una volta atterrato sul PC dell'utente è in grado di sottrargli informazioni. E come ti dicevo all'inizio, informazioni uguale denaro. Sì, questi sono fenomeni che stiamo, quello delle botnet, quindi reti di computer compromessi, magari in mezzo c'è anche il nostro, noi non ce ne siamo accorti, continuiamo a fare le nostre cose quotidiane, navighiamo in internet, spediamo, riceviamo email e nel sottobosco, dietro le quinte del nostro computer, una volta li chiamavamo hacker, ma li possiamo definire criminali informatici, utilizzano una parte della potenza di calcolo del nostro computer per fare attacchi in giro per il mondo, magari a banche o ad altre istituzioni. Altre modalità per rubarci dati e magari rubare soldi, non direttamente a noi, ma magari a qualche altra organizzazione. Sì, diciamo, quello che hai descritto è un aspetto, nel senso che una volta che è stato compromesso il computer dell'utente con un codice malevolo, quel codice malevolo può sfruttare una parte della capacità computazionale del computer per condurre attacchi. Ma in realtà questo è, come ti dicevo, un lato della medaglia. L'altro lato è che oggi questi zombie sono in grado non solo di condurre attacchi nel caso che ne fosse la necessità, ma sono in grado proprio di rubare informazione sul nostro PC mentre non lo stiamo utilizzando. Quindi nel caso veniamo infettati, questo zombie, questo bot, è in grado di sottrarci per esempio le credenziali con le quali facciamo login, quindi con le quali accediamo al nostro portale di internet banking, o se facciamo un acquisto online e digitiamo il numero di carta di credito, sono in grado di in qualche modo sottrarcelo, e sono anche in grado di sottrarci le credenziali per Facebook piuttosto che per gli altri social network. Quindi sono diventati degli strumenti assolutamente avanzati. Se guardiamo al nostro paese, dal rapporto che voi avete presentato, che ricordiamolo, si chiama Internet Security Threat Report, dove threat sta per minacce, che sono di tanti tipi, guardando al nostro paese, che cosa possiamo dire? Dobbiamo essere contenti o mica tanto? Allora, nel ISTR all'italiana ci sono una serie di classifiche, gli ascoltatori possono scaricarla sul portale di Symantec e andare a vedere un pochettino le graduatorie. Il posto in graduatoria però va in qualche modo correlato a un'unità di misura. È come se ti chiedessi, secondo te ci sono molti più incidenti in Città del Vaticano o in Italia? Immagino che la risposta che è semplice, è abbastanza semplice, ce ne sono molti di più in Italia. Mentre credo che saresti molto meravigliato se ti dicessi che in Città del Vaticano ci sono più incidenti che in Italia. Certo. Questo in qualche modo ti farebbe sospettare che c'è un fenomeno in atto. Ecco, così come per gli incidenti si fa in qualche modo riferimento al traffico circolante, in internet e per le minacce si fa riferimento agli accessi a banda larga che ha un paese. E l'Italia in questa classifica particolare è quarta a livello europeo. Quindi quando andiamo a guardare la classifica dovremo confrontare il posto dell'Italia in Europa con un quarto posto che abbiamo come numero di accessi. Certo. Facendo questo paragone, l'Italia globalmente oggi come minacce provenienti dall'Italia è sesta, quindi stiamo andando leggermente meglio rispetto a quello che dovremmo andare visto quanti accessi a banda larga abbiamo, quindi insomma un segnale sicuramente rassicurante da questo punto di vista. Però c'è sempre il rovescio della medaglia, ci sono alcuni fenomeni sul quale dobbiamo focalizzare la nostra attenzione. Prima abbiamo parlato di botnet, l'Italia è il secondo paese in Europa per numero di bot sui PC degli utenti e abbiamo scalato questa classifica poco sicuramente rassicurante nel corso del tempo, perché siamo passati da un quarto posto nel 2007 a un terzo posto nel 2008 a un secondo posto nel 2009, quindi siamo continuati a crescere da questo punto di vista. A questo punto uno potrebbe domandarsi, ma io che cosa ci posso fare? Ci sono una serie di raccomandazioni per tenere il proprio PC il più lontano possibile da questi fenomeni. Alcune sono di natura prettamente tecnologica, quindi sono cose che probabilmente tutti gli ascoltatori, anche tu, hai sentito ripetere più e più volte da altre persone. Quindi mantenere aggiornato il proprio computer è fondamentale. Se il nostro PC non è in salute, ci sono delle vulnerabilità, gli attaccanti in qualche modo possono compromettere queste vulnerabilità. E questo è vero sia per il nostro sistema operativo, Windows della situazione, piuttosto che per le applicazioni che installiamo. Pensiamo per esempio a un lettore di filmati, piuttosto che a un lettore di file PDF o qualunque altro strumento. Quindi software aggiornati, sempre. Sempre. E qui diciamo, bisogna farci molta attenzione. Il secondo step è soluzioni di sicurezza per il proprio PC, per il proprio computer, quindi antivirus, firewall, anti-spam. Oggi sempre più soluzioni di sicurezza non sono più semplici antivirus. Quello di Symantec, che si chiama Norton Internet Security, per esempio, ospita un antivirus, un firewall, c'è un anti-spyware all'interno, un IPS, quindi una serie di strumenti che cercano di mantenere sicuro il PC il più possibile. Sì, tutti i produttori di software di questo genere le chiamano suite per la sicurezza. Esattamente. Quindi un insieme di prodotti che servono per mantenere sicuro il proprio computer. Esatto, esatto, questo è fondamentale. E un terzo aspetto, diciamo, molto importante, è sicuramente quello delle password. Molto spesso paragono le password alla combinazione di una cassaforte dentro la quale teniamo i nostri gioielli. Se noi abbiamo tante cassaforti e scegliamo sempre la stessa combinazione, questa combinazione è sempre 000, non credo che ci sia bisogno per un attaccante di usare il trapano o dell'esplosivo per aprire la cassaforte. Gli basterà provare 000 come prima combinazione. Quindi attenzione all'utilizzo che si fa delle password, scegliamole il più possibile robuste e il più possibile diverse. Quindi se dobbiamo scegliere una password per accedere a Facebook, al nostro conto corrente bancario, non scegliamo il nome della nostra fidanzata o del fidanzato o del cane o la targa della moto, inventiamoci qualcosa di un pochettino più complesso. Sì, e purtroppo per pigrizia questo lo si fa poco, ma è utile ripeterlo. Assolutamente sì. L'altro aspetto invece è più comportamentale. Sì, sì, purtroppo importante. Moltissimi degli attacchi che alla fine hanno impatto sui PC degli utenti sfruttano quelle che noi chiamiamo tecniche di ingegneria sociale. Quindi in qualche modo si cerca di convincere l'utente, detto in altre parole, a compromettere il proprio PC da solo o a rivelare le proprie credenziali da solo. Sto pensando alle mail di phishing, tanto per fare un esempio, dove ci arriva una mail dove ci viene detto che il tuo conto corrente è stato bloccato, devi effettuare nuovamente il login e siamo noi che ci colleghiamo al portale fasullo e inseriamo le credenziali. Quindi è importantissimo essere scettici o comunque sempre chiedersi come mai avvengano certi fenomeni. Se riusciamo a essere un pochettino più dubbiosi e più scettici rispetto a quello che osserviamo in rete, questo ci in qualche modo innalza un'ulteriore barriera contro gli attacchi di ingegneria sociale. Certo, anche perché facendo il caso e l'esempio della banca che tu hai fatto, è ben raro, se non forse impossibile, che la nostra banca ci chieda di andare su un sito per rimettere nuovamente delle credenziali d'accesso che magari ci viene detto sono scadute, eccetera, eccetera. Sì, purtroppo diciamo gli attacchi di ingegneria sociale stanno diventando sempre più sofisticati. Un fenomeno che abbiamo osservato nel corso dell'anno e sul quale Symantec ha scritto un report specializzato che si chiama Rogue Security Software, quindi software di sicurezza fasulli, finti, è proprio sfruttare fenomeni tipo il seguente. Noi stiamo in questo momento raccontando ai tuoi ascoltatori i fenomeni che sono avvenuti in rete in Italia, abbiamo sollevato alcune aree di preoccupazione e uno dei consigli che abbiamo dato è quello di installare delle suite di sicurezza. Bene, il mercato underground si è organizzato anche per sfruttare questi meccanismi, quindi sanno che gli utenti devono installare software di sicurezza, sanno che in qualche modo questi software di sicurezza hanno un costo e che gli utenti sono pigri e possibilmente tenderebbero a non investire dei soldi per la protezione e quindi creano delle suite di sicurezza finte, dalla grafica estremamente accattivante, dal nome assolutamente accattivante, che quando però l'utente compra, magari anche a poco prezzo, in realtà li installa sul PC e non ottiene nessuna protezione, anzi ottiene una serie di danni abbastanza considerevoli. Ha dato la propria carta di credito per comprarla, magari spendendo pochi soldi, $10-15, €10-15, e quindi ha perso questi $15 con cui ha comprato. La sua carta di credito è stata rivenduta sul mercato underground, ha un falso senso di sicurezza, terzo aspetto negativo, quarto aspetto, il suo PC fa parte ora di una botnet. Quindi anche gli attacchi di ingegneria sociale stanno diventando sempre più evoluti, è per questo che gli ascoltatori dovrebbero sempre essere un pochettino più scettici rispetto ai fenomeni che osservano. Bene, io ringrazio Antonio Forzieri per essere stato con noi, buon lavoro, a presto. Grazie mille Enrico, alla prossima. Ha fatto discutere questa settimana la proposta avanzata dalla FIEG, la Federazione Editori di Giornali, di introdurre una tassa sull'utilizzo del computer per aiutare l'editoria in questa fase di crisi. Parliamo di editoria di carta. La proposta è stata bocciata sia dal mondo della rete, che risponde dicendo che per reagire alla crisi si devono trovare nuovi modi per fare business, Ma la bocciatura arriva anche dal governo, che se la cava non intervenendo nel merito, ma dicendo che non è tempo per nuove tasse. Adesso parliamo di commercio elettronico con l'aiuto di alcuni dati recenti. Il mercato cresce, questa è una notizia positiva a proposito di crisi e di reazione in tempo di crisi, ma di quanto cresce e soprattutto quanto pesa sul commercio in generale? Qualche giorno fa Casaleggio e Associati ha presentato l'annuale rapporto sull'e-commerce. Davide Casaleggio è uno dei partner, benvenuto a 2024. Buongiorno a tutti. Dicevo che stiamo osservando un dato sicuramente interessante, che è quello di crescita. In un anno dove il segno meno prevale, nel 2009 insomma, abbiamo visto molti settori, molti segmenti di mercato dove prevaleva il segno meno, se guardiamo all'e-commerce in generale possiamo vedere segni positivi, anche perché parliamo di un mercato ancora piccolo in Italia. Ma che cosa avete osservato nell'ultimo anno? Ma nell'ultimo anno abbiamo visto una crescita molto più alta degli anni scorsi, che era già comunque sempre a doppia cifra. E negli anni scorsi vedevamo crescita del 20-30%, nell'ultimo anno abbiamo visto una crescita del 58%, arrivando a circa 10 miliardi di euro di fatturato fatto con commercio elettronico. Questa crescita è dovuta principalmente al settore delle scommesse online, ma anche tutti gli altri settori comunque sono cresciuti tutti a doppia cifra. Quindi potremmo dire che quello del gioco d'azzardo, delle scommesse online, forse ha un legame o un'attinenza con il periodo di crisi che stiamo vivendo, però se uno guarda agli affari che si fanno con il commercio elettronico, e questo fa parte del commercio elettronico, vede insomma una crescita che mi sembra piuttosto spiccata, più 58%, insomma è incredibile quasi. Sì, ci siamo sorpresi anche molto anche noi di questi numeri. Bisogna dire che la crescita è dovuta sostanzialmente alla liberalizzazione, quindi a un intervento legislativo su questo settore che ha permesso per esempio di giocare a poker online, cosa che prima non era permesso e avveniva su siti esteri e comunque in modo illegale. Comunque lo si guardi, questo è un business e quindi è interessante vedere ad esempio in questo caso come la legge può incidere positivamente, in questo caso almeno per quanto riguarda i numeri, su un settore economico. A volte si commentano provvedimenti di legge che in alcuni casi frenano lo sviluppo, in altri, come in questo, lo favoriscono. Se guardiamo al di là di questo piccolo segmento che è quello del gioco d'azzardo, delle scommesse online, quali sono gli altri tasselli del commercio elettronico interessanti? Ma sicuramente il turismo, che è sempre rimasto il principale settore fino allo scorso anno, è una parte fondamentale del commercio elettronico e sta crescendo comunque a tassi, anche il turismo a tassi di due cifre. Seguito poi dall'elettronica e consumo, infatti ormai tutti i magazzini di elettronica e consumo sono sempre più virtuali, ma questo è dovuto al fatto che il costo del magazzino di prodotti che deperiscono velocemente è molto alto, quindi solo chi riesce a gestirlo in modo virtuale riesce ad avere una gamma molto vasta e mantenere dei prezzi competitivi. Quindi diciamo che per chi vende questo tipo di prodotti il commercio elettronico è un grande vantaggio, certo, rispetto magari ad altri settori dove il vantaggio lo si vede meno. Sì, in questo caso la parte legislativa ha inciso negativamente, in particolare con i diritti SIAE, che sono dovuti su tutte le memorie, di cui so che avete parlato in un paio di trasmissioni fa, e dal punto di vista dell'IVA, perché i prodotti sostanzialmente molto simili sono venduti in tutta Europa, l'IVA applicata è diversa nei diversi paesi e questo fa sì che andando online spesso si trovano dei siti in cui i prezzi sono molto diversi. Questo penalizza ovviamente i siti di, certo, di vendita italiana. Sì, stiamo parlando infatti del commercio elettronico italiano e esperienza insomma comune, la possibilità di comprare dall'estero e quindi magari si trovano prezzi più competitivi in altri paesi. Stiamo parlando in realtà di un mercato che cresce molto, quindi i dati sono positivi sul lato della crescita, ma di fatto un mercato che è ancora piccolo. Se lo confrontiamo con il totale del commercio in Italia, che cosa possiamo dire? Poi magari facciamo anche un riferimento ad altri paesi e ad altri e-commerce in Europa almeno. Sì, il mercato rispetto alle vendite del dettaglio è ancora sotto l'1%, quindi è ancora... insignificante, potremmo dire. Sì. E, all'estero, per esempio in Gran Bretagna, l'incidenza del commercio elettronico arriva al 9,5% sulle vendite del dettaglio, quindi si capisce quanto sia diverso l'approccio verso internet di un paese come l'Italia rispetto alla Gran Bretagna. Il commercio elettronico italiano incide appena il 3% sul commercio elettronico europeo nel suo complesso. Se si va a confrontare lo stesso rapporto andando a vedere il PIL, vediamo che stiamo parlando di 12-13 punti percentuali. Quindi questo gap tra il 3% e il 12-13% è un gap che è da colmare sia dal punto di vista dell'offerta, ci sono molte società che ancora oggi non stanno vendendo online, sia dal punto di vista della logistica, infrastruttura e legislazione italiana. Quindi diciamo che il nostro commercio elettronico non rappresenta il peso che noi abbiamo in realtà in Europa, in altri ambiti. Secondo voi, secondo quello che avete capito realizzando questo rapporto, quali sono i motivi? Probabilmente alcune decine saranno i motivi, però i principali quali sono? Ma il principale è sicuramente la banda larga. La diffusione della banda larga ha un costo competitivo rispetto agli altri paesi, è ancora una cosa che all'Italia manca. E secondo voi questo è un problema che frena lo sviluppo dell'e-commerce? Cioè la diffusione, la possibilità di avere internet in banda larga ha un rapporto con la propensione all'acquisto online? Certo, perché le persone si abituano a essere online, fare tutte le attività che fanno normalmente, a farle online, quindi ascoltare la radio online, leggere il giornale online, acquistare online. Se le persone si abituano a utilizzare lo strumento internet per fare tutte le attività quotidiane, faranno anche gli acquisti quotidiani. Bene, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, a presto. Grazie. Beh, dicevamo prima dei giornali di carta che si debbono riposizionare su internet e quindi devono ricreare un business in un altro ambiente, e vale la stessa cosa anche per i commercianti che devono ricreare una propria offerta su internet. E le cose sono molto diverse, perché non c'è solo la gestione della logistica, ma l'usabilità ad esempio del sito internet è estremamente importante, e stanno vincendo e vinceranno sempre di più i siti internet che, oltre naturalmente a gestire tutto il resto, la logistica in primis, l'offerta, il servizio al cliente, eccetera eccetera, faranno e stanno facendo un sito internet utilizzabile, navigabile molto facilmente e molto chiaro nell'offerta. Bene, prima di salutarvi una notizia che più che altro è una curiosità. Alcuni di voi ricorderanno che alcuni mesi fa l'organizzazione che governa il funzionamento della rete internet, l'ICANN, aveva approvato un regolamento che dà la possibilità di utilizzare caratteri non latini per i domini internet. Fino a pochi mesi fa, insomma, era possibile utilizzare solamente caratteri tipici delle lingue occidentali, quindi di derivazione latina. Bene, la Federazione Russa ha ottenuto il primo dominio internet in cirillico, che si aggiunge da pochi giorni a quelli in arabo già concessi all'Egitto, agli Emirati Arabi e all'Arabia Saudita. Segno della rete internet che cambia e si diffonde nel mondo. Ed è tutto per questa puntata di 2024, grazie come sempre per la vostra attenzione. Ci troverete anche su internet sul nostro sito web www.radio24.it. c'è una sezione che vi consiglio, che si chiama Podcast, e lì potete abbonarvi gratuitamente al servizio Podcast, scaricare 2024, che vi ricordo sarà disponibile a breve, quindi grazie come sempre ai nostri tecnici che uploadano il file molto velocemente. Il nostro indirizzo di posta elettronica per maggiori informazioni, per tutti i vostri desideri, potete scriverci a 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini. Ringrazio per l'assistenza al programma Anita Ariotti. Ci risentiamo la prossima settimana, sempre il sabato alle 16 su Radio 24. Buon ascolto con i nostri programmi. You are disconnected.